Adesso tutti i nostri ascoltatori in macchina o nel traffico, soprattutto, insomma, nell'ascolto radiofonico in una situazione di confusione, ascolteranno e godranno tantissimo di questa cosa sottile che stai facendo di musica sperimentale. Vai, vai. Sembra un po' il vento quando soffia nelle finestre. Io farei tutti 10 minuti così, non so tu. Chiedo asilo. Stanotte, Drago, stanotte ho fatto un... Drago! Drago! Oh, che c'è? Mamma mia, usare sti mezzi qua terroristici, cos'è? Sì, ci sono qui. Stanotte ho fatto un incubo bruttissimo. Beh, un incubo bellissimo, voglio vedere, Non difficile. scherzare, Drago, mi sono spaventato. Vabbè, avrei mangiato pesante ieri sera davanti alla TV, i tuoi ormai celebri TV dinner con Vabbè, ma Tito dal scusa, divano davanti. cassola e peperoni, sarà mica una cena pesante. Ecco, eh sì, figurati. Tito, guarda che anche tu ci hai dato dentro con la Sì, cassola, ma scusa, ieri non era mercoledì. Eh sì. Cosa? È mercoledì, è il tuo gastrite Lo day. so, ma tanto ormai. Mi vai a mangiare la cassola con i peperoni? I casi sono due: o sei pazzo, o la gastrite è Ma un'invenzione. no, ma la sera stavo già meglio. Ho Vabbè, detto, vabbè, l'incubo è il ormai minimo che ti potesse capitare. Non so, non oso immaginare quel che è successo in bagno. Non osi? Immagina. Sì, posso, ma non voglio. E comunque, dai, fammi dire dell'incubo. Sì. Allora, io ero a Berlino per strada, In che no? strada eri? Non lo so, a Berlino. Come fai a sapere che eri a Non lo Berlino? so, draga, è un sogno. Sapevo che ero a Berlino. Ho Anzi, capito. adesso che mi ricordo, ero a Berlino perché ero dalle parti del Bundestag. Ah, allora eri tipo sulla Konrad Adenauerstrasse, quella che arriva da Tito, sud, no? ma dai, ma non lo so, vicino al Bundestag, no? E camminavo tranquillo con Tito. Allora, probabilmente eri sulla Rahel Ma non lo Hirschstrasse, no? so Ah, scusa, dov'ero! eri sul lungo fiume dalla parte di Plaza delle Repubbliche. Non te lo racconto più, eh. Allora, a un certo punto, mentre cammino a Berlino, sento un gran rumore, no? Un gran rumore a Berlino. Sì. Mi giro e vedo un esercito di orsetti di peluche sì. a Berlino che Sì. marciano verso il Bundestag al suono della cavalcata delle Valchirie. Hai presente? Centinaia di orsetti, immaginatevi. Con le zampette paffute, gli occhi a No. palla che marciano. Fanno il passo dell'oca. No, sono orsetti, fanno il passo dell'orsetto, Drago. Sono Ah, orsetti, giusto, giusto, gli giusto. orsetti. Vabbè, e poi cosa è E poi successo? d'improvviso arriva la Merkel. Cioè, è proprio lei? Ma in che Cioè, senso? non un pupazzetto della merda, lei Ma in no, un carne e ossa pupazzetto. proprio. Lei in carne e ossa, e carne, molta carne. E le ossa devi andarle a Vabbè, cercare. dovresti Perché, però. proporti come speechwriter di Vabbè, Berlusconi. comunque Comunque, arriva la Merkel, vabbè. gli Sì. orsetti si fermano davanti a lei. Centinaia di migliaia di orsetti di peluche fermi. Appena apre bocca per dire "Ich", la massa di orsetti ricomincia a marciare e la seppellisce Ma e si come? richiude sopra di lei. Una Vabbè. fine orrenda, calpestata dagli Ma orsetti. Povera Angela. forse prima di addormentarti hai Un sentito la incubo. notizia in TV, perché poi la cassola allucinogena ha fatto il Ma quale resto. notizia? Cosa è successo? È successo che è una cosa del genere, cioè c'è uno spettro che si aggira per l'Europa e minaccia il futuro degli orsetti di peluche, non lo sai? È la delocalizzazione, anzi. La delocalizzazione. L'azienda tedesca Steiff, quella dei famosi teddy bear che vengono venduti e Steiff, comprati dai bambini in tutto il mondo, minaccia certo. di chiudere la sua sede principale che è in Portogallo. Quindi c'è già stata la delocalizzazione dalla Germania al E Portogallo. quindi? Adesso vuole andare via dal Portogallo e trasferire tutto in Tunisia, hai Ecco, è un capito? bel chi se ne E frega. quindi no, hai avuto un presentimento tu col tuo incubo, la marcia di protesta di 100.000 teddy bear contro la chiusura della fabbrica e contro la politica del rigore dei tagli della Merkel, capito? Poteva andarmi peggio. In che senso? Sì, vabbè, Pensa se mi... incubo. Pens no, pensa se mi addormentavo sul divano sotto l'effetto della cassola allucinogena mentre la TV dava una notizia che ne so, che Berlusconi si vuole ripresentare candidato Guarda che premier. forse Cosa avrei non lo sognato? so, però forse è vero. Immagina, Vabbè, che cosa avrei sognato? Immagina un'immensa schiera di Angelini Alfano, di Angelini Alfani o Angelini Come Alfano si o dice? Alfani, Di di tutti di Angelini. peluche, ma calvi, Sì. che marcia verso Arcore. Stai facendo il passo dell'oca, no? No, sono Alfani, fanno il Quindi. passo della rana, no? Sono la rana più bella e più strana di tutte le rane del mondo. Baciami presto, poi verrà il resto, un gentleman azzurro e biondo. Sono il principe tra le rane. Bella fanciulla, beata e tranquilla, che giochi a rincorrer la palla. Vedi che salto, mi tuffo e rimbalzo, più agile di una farfalla. Sono il principe tra le rane. Sono qui a mollo nello capo. Oggi dovrebbe essere il tuo dermatite day, no? Orticaria. Ah, scusa, hai ragione, orticaria day. Sì, ma oggi non ho l'orticaria. E come mai? Pensaci, drago. Boh. Immagina. Boh. Ma basta, wow. Non so proprio, non ho un'idea. Dai, domani a Milano è festa, è Sant'Ambrose. Ah, adesso capisco. Sant'Ambrose. Allora capisco la cassuela di ieri anche. Cosa c'entra la cassuela col ponte di Sant'Ambrose? C'entra perché sia nella parola cassuela, sia nella parola Ambrose c'è il trittongo O-E-U pronunciato E. No, guardilo, ti guardilo. Aia, guardi forte. Quindi oggi niente grattarola perché è prefestivo. Siamo in prefestivo. Però mi duole dirti che domani noi saremo puntualmente all'asilo, quindi. Ah sì? Già. Oh cazzo. Beh, quindi cosa mi cadi dal pero? È mai successo una volta che noi santificassimo le feste come tutti i buoni cristiani? Mai una volta, sempre qui, sempre puntuali, sempre, sempre, sempre. Sapevo. Cosa c'è adesso? Cosa? L'orticaria. Di colpo, per così. Per forza, ma no, da giovedì prefestivo. Questo giovedì è diventato giovedì ordinario, giovedì orticario. Ma non capisco, ma cioè, è una questione meccanico-burocratica. Cioè sì. Tu sei qua con me, stai bene, poi vieni a sapere che domani si lavora, una cosa burocratica, così di, non so, di regolamento, e automaticamente scatta l'orticaria. Certo, così, scatta l'orticaria. Mi sembra una baggianata. Succedesse però, a te, senti, io... Immagina, why. Ma io per non saperne leggere né scrivere, ti consiglio lo psicanalista elettrico dell'asilo Stoppani. L'hanno appena installato, vieni, ti accompagno. È uno psicanalista elettrico, no, ma che, nel ma senso smetti. Che non è un essere umano, però è un'intelligentissima macchina a gettoni. Capito? Ma come i gettoni? A gettoni, sì, lo sai che qui il contante qui non si può usare, no? Oh, eccolo qua, psicanalista elettrico dell'asilo Stoppani. Dai, entra nella cabina, su. Nella cabina, schiaccia start e io sto fuori, aspetto. Ma chi l'ha detto che ha bisogno di uno psicanalista? Scusa, drago, ma poi non va a gettoni? Boh. Proviamo. Sfera. Sono lo psicanalista elettrico dell'asilo Stoppani. Sfera. Sfera. Per ottenere i miei servigi dovete inserire un gettone sagomato di difficile reperibilità nella mia fessura sagomata di altrettanto difficile reperibilità. Sfera. Sapevo, gettone. Adesso il gettone. Sfera, stand by. Sfera. Drago. Sfera, stand by. Un attimo, torno, vado a cercare il gettone. Sfera, stand by. Sì. Aspetta un attimo. Sfera, stand by. Sì, sono qua, sono qua. Il gettone me l'ha dato Suor Dentone in cambio di due Camel senza filtro. Allora, adesso dov'è la fessura? Sfera, benvenuti al servizio di psicanalista elettrico dell'asilo Stoppani. Vabbè, ma non si possono presentare il vostro quesito scandendo bene le parole. Sì. Capisco niente. Ma non si capisce niente. Sfera. Comunque, vabbè. Buongiorno, io mi chiamo K e volevo. Capisco, no. La prego di non usare parole non appartenenti al vocabolario italiano. Ma ho detto cinque parole, tutte dotate di senso. Forse sfera, andiamo avanti, sfera. Ma cosa sfera? Vabbè, non si capisce niente qua. Sono qui con. Mi ha detto il mio collega. Ma funziona sta roba o no? Drago! Un drago non può essere amico di un essere umano. No, ma drago è il nome del il cognome. Sì, però mi scusi, andiamo avanti perché sennò chiudono l'asilo, mi sa che siamo già in ritardo. Allora facciamo la prossima. Per l'intanto può recitare due Ave Marie che non fanno mai male. Spera. Ma come due Ave Marie? Poi non è due Ave Maria? O due Avi Maria? Boh. Ma lei è uno psicanalista o un confessore? Scusa, cos'è sta roba? Un giorno le spiegherò tutto. Sfera, poi... fine del servizio. Sfera. Lei chi? Mancano 15 giorni alla fine del mondo.